Maledetto sia l'aspetto che m'arde tristo a me, poi che sento, rio tormento, poi che moro, ne ristoro a mia festa il perché. Maledetto sia l'aspetto che m'arde tristo a me, maledetta la santa che in piagone varrò, così fumale il mio sole, così brama che disama quanto può che farò. Maledetta la santa che in piagone varrò, donna Ria, morte mia, vuol così che ferri, prende gioco del mio fuoco, vuol che openi, che mi sveni moro qui fiero di. Donna mia, morte mia, vuol così che ferri. Già tutta mia, via quell'anima e quel cuore, chi da me mi desvia, non volaccio d'amore. Oh, bellezza, oh valore, oh mirabil costanza, ove sei tu. Già tutta mia, or non sei più, non più, non più, non più, non più, che mia non sei più. Sol per me gli occhi belli rivolgevi ridenti, per me d'oro i capelli si spiegavano ai denti. Oh, fugaci contenti, oh fermezza d'un cuore, dove sei tu? Eri già tutta mia, or non sei più, non più, non più, non più, non più, che mia non sei più. Il gioir nel mio viso, a che più non rimiri, il mio canto, il mio riso è converso in martiri. Oh, dispersi sospiri, oh sparita pietate, dove sei tu? Eri già tutta mia, or non sei più, non più, non più, non più, non più, che mia non sei più. Lasciatemi morire. in vagliai crudo agli occhi miei. Volgiti Tesio mio, volgiti Tesio, oh Dio, volgiti dietro al miracolo che lasciata per te la patria il regno in questa regna ancora cibo di fere di spietate crude lascerà l'ossa ignude. Vaneggio miso tradita speme e non si spegne fra tanto scherno ancor d'amor il fuoco spegni tu morte ormai le fiamme indegne o madre o padre o dell'antico regno superbi alberghi ove vi dor la cuna o servi o finamece hai fatto indegno mirate ove m'ascoltem via fortuna mirate di che dual m'ha fatto errer dell'amor mio la mia fede e l'altro inganno così va chi troppa ama e troppa crede Si dolce il tormento che in seno mi sta, io vivo contento per pura beltà. Nel cielo di bellezza s'accresci fierezza e manchi pietà, che sempre qual scorio all'onde d'orgoglio mio fede sarà. La speme fallace rivolgami il pie, di letto le paci non scendono a me, e l'empia che adoro mi nieghi ristoro di buona merce, tra dolore antifica, tra speme e tradita vivrà la mia fe. Per forse per gelo riposo non ho, nel porto del cielo riposo avrò. Se colpo mortale con rigido strale il cor mi impiago, cangiandomi a sorte col dardo di morte il cor sanerò. Se fiamma d'amore giammai non sentì quel rigido cuore che il cor mi rapì. Se nega pietate la cruda beltate che l'alma invaghi, ben fiate dolente, ben vita ed anguente sospiri di un dì. Ancora il pie pur come prima. Ahimè, ch'io cado in me, chi inciampo ancora il pie pur come prima. E la sfiorita mia caduta spinge, pur di nuovo rigar con fresco lacrimar, or mi conviene. Vecchio ardor, conosco l'orme ancora dentro nel petto. Masso del vecchio ardor, conosco l'orme ancora dentro nel petto. Cargo tu il vago aspetto ai guardi amati. Los vado ad amantin, or d'armar il meschin. Si erge l'adi. Fu folle. Credevi o pur d'aver schermo sicur da un nudo arciero, eppur io si guerriero son cordardo, ne voglio sostenir il colpo lusinghier d'un solo sguardo. Per si bella cagione